Sono le ore 10:44 di sabato 22 marzo 2025. Ed è di poco più di 24 ore fa la notizia dell'acquisizione della app e community di bikers e trekkers che si chiama Komoot da parte dell'azienda italiana Bending Spoons, che è una delle principali, anzi direi la principale realtà del mondo delle applicazioni digitali che abbiamo in questo paese. È un'operazione naturalmente così, leggendo i resoconti della stampa, che viene raccontata in una chiave positiva, per carità, se c'è un'azienda italiana che cresce, soprattutto di questi tempi, c'è solo da gioirne, però ci sono dei risvolti che secondo me non possono essere completamente ignorati, per esempio il fatto che la storia recente di Bending Spoons è una storia di acquisizioni anche di, insomma, servizi, applicazioni importanti come WeTransfer, Brightcove, StreamYard, Meetup, eccetera eccetera, che nascevano quasi tutte queste app in una logica di utilizzo di dataset e open data aperti, e che poi appunto dopo l'acquisizione si sono trasformate sempre più in modelli chiusi, in giardini murati. Questo, per carità, lo fanno i grandi over the top della rete, e ovviamente non possono fare diversamente le aziende di dimensioni nazionali, di dimensioni più piccole. Però ecco, l'idea che esista una sorta di esercito di avvoltoi pronti a vedere tutto ciò che è rimasto di non chiuso, di non sfruttato, di libero, che si fonda sul crowdsourcing, quindi sulle informazioni volontaristicamente messe a disposizione delle persone per poi trasformarle sempre più in un business, il che va bene, ripeto, ma un business sempre più tossico, è qualcosa che un po' mi preoccupa. Komoot in realtà era già una app, e quindi un'azienda con un business e con un modello freemium, in parte era gratuito, poi per alcune caratteristiche dell'app bisognava pagare, ma va benissimo, per carità, però non sono sicuro che questa principale capacità di questo servizio, no, di mettere a disposizione in tempo reale percorsi, documentarli con fotografie, con aggiornamenti, con recensioni, spiegarne le caratteristiche e la facilità poi di trovarli anche sotto casa, che secondo me è stata una delle principali leve, soprattutto durante la pandemia, no? Per trasformare tanti sportivi da poltrona in trekker, in biker. Ecco, cioè io non sono sicuro che le caratteristiche davvero vincenti di Komoot possano sopravvivere a un'operazione, a un ulteriore salto di scala nella direzione della tossicità del modello. E poi c'è anche un altro aspetto che, insomma, magari io a volte trascuro, che è l'aspetto della forza lavoro. Se guardiamo la storia delle precedenti acquisizioni, come risulta anche in un link che adesso condividerò nella bibliografia, le acquisizioni di Bending Spoon, quasi sempre la forza lavoro è stata decimata dopo l'acquisizione, e anche questo è qualcosa che dovrebbe preoccuparci non solo quando succede tipicamente alla rovescia, cioè l'azienda straniera che compra l'azienda italiana e poi licenzia i dipendenti italiani, ma anche quando la cosa accade a nazionalità e a parti inverse. Sono tutti aspetti forse che rientrano in quel processo di enshittification della rete e del suo business, descritto con preveggenza da Jeff Jarvis ormai qualche anno fa. Stupisce appunto vedere che colpisce dover riscontrare che per vincere in questo settore anche le aziende italiane più brillanti, appunto come Bending Spoons, devono cavalcare quella stessa identica logica. Ripeto, non stupisce, ma colpisce, e forse colpisce anche la straordinaria efficienza dell'ufficio stampa di questa azienda italiana, che negli ultimi mesi è riuscita a far uscire interviste, articoli dove si parla appunto di un'azienda con una qualità della vita sul lavoro straordinaria e dove addirittura c'è un ambasciatore della felicità. Tutto questo mi sembra che saturi tutto lo spettro del raccontabile sullo stato attuale del mondo digitale, ma i segnali insomma si erano visti anche 10-15 anni fa, no? Quando nelle startup di tutto il mondo si costruivano appunto biliardini e letti a castello invece di una maggiore consapevolezza dei propri diritti.